Perfetta Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Allora, onorevole Fitto, ha da dire qualcosa? Chi è? Non so se avete sentito, Berlusconi era in mezzo così alla folla, gli hanno chiesto l'onorevole Fitto cosa ne pensa di questa spaccatura, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, e lui ha detto chi è. Sapete che da un po' di tempo va di moda usare queste due paroline lapidarie per, diciamo, tra virgolette, distruggere qualcuno, come avevamo sentito giorni fa, avevamo ritrovato quella frase di Renzi quando diceva, a proposito di Fassina, più o meno la stessa cosa. Stasera certamente parleremo di politica. Faremo un punto sulla politica perché ne è ricca anche questa settimana in vista delle regionali, con la campagna in piena attivazione, la campagna elettorale. Poi c'è il nodo delle pensioni, il nodo della scuola, quindi ne avremo da parlare, da ricordare, da analizzare. E poi parleremo anche di questo caso che sta suscitando molte polemiche, della frase di cui avevo dato già qualche accenno ieri sera, nella puntata di ieri sera, su Belolli, il presidente della Lega Dilettanti di calcio, che aveva detto, cioè era una cosa del 5 marzo, e aveva detto, era stata pubblicata ieri, basta dare soldi, a proposito del calcio femminile, a queste quattro lesbiche. E allora lui oggi ha detto a Radio 24 che non ha mai detto queste parole, che lo provino. D'altronde uno potrebbe anche trovare altre argomentazioni che non dire quando è accusato di aver detto qualcosa, che lo provino che l'ho detto io, insomma non è molto convincente, ma al di là di questo ha detto che è un golpe, quindi il tentativo di farlo fuori evidentemente dal suo ruolo di presidente. Però questa sera qui a Effetto Notte ci sarà Sonia Pessotto, ex calciatrice e consigliera della FIGC, che era testimone nel momento in cui lui ha detto questa cosa, e qui a Effetto Notte la ripeterà tra poco. Quindi non perdete questa puntata, poi parleremo di meteo, visto che il tempo sta un po' cambiando, soprattutto al nord, ci sono stati disagi anche a Malpensa, negli aeroporti. Vi ricordo i numeri e anche la pagina Facebook, naturalmente, che è sempre quella di Effetto Notte, per i vostri interventi. Direi che potreste intervenire proprio su questa cosa di Belolli. Voi come commentate questa sua frase? Secondo voi che cosa dovrebbe fare a questo punto? Allora, per gli sms è il 349-238-6666, il numero come sempre per mandare il messaggio, oppure c'è la pagina Facebook di Effetto Notte. Intanto vi riassumo come sempre all'inizio della giornata. Napoli, un uomo per futili motivi spara ai passanti dal balcone dopo aver ucciso il fratello e la cognata. Il bilancio è di 4 morti e 5 feriti. Scuola, la Camera approva i primi articoli e i sindacati manifestano in piazza a Roma. Le frasi sessiste sul calcio femminile, il presidente della Lega Dilettanti si difende e dice che si tratta di un golpe, ma la consigliera Pessotto insiste e si dimette, stasera ospite a Effetto Notte. Lo studente è morto in gita a Milano, oggi sono stati funerali a Padova. Regionali, Berlusconi a Lecce, nel feudo di Fitto attacca il dissidente numero uno, per me è fuori, dice Salvini, si dice stufo delle aggressioni ai suoi comizi. Nozze gay, in Lussemburgo il primo ministro Bettel sposa il compagno Gauthier, è il primo capo di Stato dell'Unione Europea a sposarsi ufficialmente in un matrimonio omosessuale. Maltempo, disagi soprattutto all'aeroporto milanese di Malpensa. E ciclismo, alla settima tappa del Giro vince Ulissi, ma Contador conserva la maglia rosa. E partiamo quindi da questa notiziaccia di cronaca nera che ha dominato verso sera un po' tutte le prime pagine, diciamo i primi titoli dei media, questa strage di Napoli nel popolare quartiere di Secondigliano. Ma per saperne di più ci colleghiamo direttamente con la nostra Laura Viggiano. Laura. Sì, buonasera. Una lite scatenata da dei panni spesi sul ballatoio dalla cognata, alla quale si è unito poi il fratello di Giulio Murolo, una infermiera di 45 anni con la passione del tiro al volo e un porto d'armi detenuto dal 2003. Così si è giunti alla tragedia oggi pomeriggio, che conta 4 morti e 6 feriti. La polizia sta definendo ancora la dinamica dei fatti, cambiata più volte nel corso del pomeriggio, e per il momento nel corso di una conferenza stampa in questura è stato reso noto che la strage è maturata in parte all'interno del cortile del palazzo dove sono stati uccisi i familiari di Murolo e un tenente della polizia locale, infatti all'esterno dove è stato ucciso un passante e sono stati feriti due passanti, due poliziotti, un vigile urbano ed un carabiniere. L'uomo ha sparato per evitare l'intervento di vicini e forze dell'ordine. Murolo non risulta avere problemi psichici e la sua reazione sembra ancora inspiegabile. È stato lui, vedendo arrivare chiamare la polizia e i carabinieri, a chiamare il 113 e ad avere un colloquio con un giovane poliziotto centralinista, ha detto subito: sono quello che sta combinando questo macello. Si è convinto poi ad uscire dalla sua abitazione, dove si è chiuso, minacciando anche di far saltare il palazzo, quando è sceso nudo in dorso per mostrare di essere disarmato nel timore di poter essere ucciso. Ha rischiato anche il linciaggio. Ora, ha detto il questore Guido Marino, si è chiuso in un mutismo assoluto. È tutto da Napoli. Grazie Laura Viggiano. Adesso invece ci occupiamo di scuola, perché è arrivato oggi in aula alla Camera il disegno di legge appunto sulla scuola. Anzi, diciamo che sono arrivati i primi sì, in realtà già era approdato ieri alla Camera. Nel pomeriggio, intorno alle 16.30, le votazioni sono state sospese per permettere ai deputati della minoranza del PD di partecipare alla manifestazione organizzata dai sindacati in piazza del Pantheon. Nel primo giorno di votazioni a Montecitorio arriva il via libera ai primi tre articoli della riforma della scuola, il cui varo da parte della Camera resta fissato per mercoledì. Finalmente si potrà dare piena attuazione all'autonomia e sarà potenziata l'offerta, e il commento soddisfatto del ministro dell'istruzione Giannini. Dopo le proteste nel mondo della scuola, il premier Renzi stamattina ha ribadito la disponibilità al dialogo, ma ha fatto sapere di non avere intenzione di stralciare dal disegno di legge le assunzioni dei precari, che nei prossimi due anni riguarderanno 160.000 docenti, ha spiegato il Presidente del Consiglio. Alle sue aperture non credono però le opposizioni, che nel pomeriggio hanno partecipato, assieme alla minoranza del PD, al sit-in di protesta organizzato dai sindacati in piazza del Pantheon. La riforma ha bisogno di correzioni profonde, ha ribadito, partecipando all'iniziativa, il democratico Fassina, che nei giorni scorsi non ha escluso una sua uscita dal PD se il provvedimento verrà approvato così com'è. Noi gli emendamenti li proponiamo qui alla Camera, se non passano li riproporremo al Senato, perché in questo modo altrimenti la scuola subisce un colpo molto pesante. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi la politica, con la campagna elettorale per le regionali, per il Presidente del Consiglio sul tavolo c'è il nodo delle pensioni, poi ne parleremo. Per Silvio Berlusconi invece c'è sempre la spina nel fianco rappresentata da Fitto, e da Lecce l'ex cavaliere ha attaccato duramente il dissidente numero uno di Forza Italia, e neanche per Renzi in realtà, ha fatto un sacco di dichiarazioni, non si riesce a stare dietro le agenzie. Comunque ha detto Renzi: non è mai stato eletto, solo sindaco di Firenze con 108.000 voti, mentre io, così dico le agenzie, con 220 milioni di voti. Evidentemente c'è qualche dato sbagliato, comunque sappiamo che per i grandi numeri Berlusconi, diciamo un po' di enfasi. Lui ora, dice sempre Berlusconi, è il capo del governo, grazie alle primarie che sono manipolabilissime, è diventato segretario del PD e poi Palazzo Chigi grazie a dei brogli, così sta nel suo comizio a Lecce dicendo Berlusconi. In tema di pensioni, oggi nell'ambito dell'operazione trasparenza l'INPS ha pubblicato una serie di dati: il 96% delle pensioni degli autoferrotranvieri è superiore a quanto si avrebbe avuto sulla base del calcolo contributivo anziché retributivo. Questo è uno dei dati che fotografa la situazione in Italia e che è stato pubblicato oggi. 1.772 euro è la pensione media lorda percepita dai dipendenti pubblici al 1 gennaio 2015, 10 euro in più rispetto al 2014. Bisogna poi all'interno di questa cifra fare dei sontuosi distinguo, perché ancora una volta, e lo dice l'INPS, l'importo è più alto per gli uomini, si parla di 2.175 euro contro i 1.480 delle donne. Eppure le donne rappresentano il 58% dei pensionati pubblici. Differenze forti anche tra categorie, allo stesso modo importanti nel paese. È il caso di insegnanti e medici, se è vero che i medici portano a casa 4.100 euro lordi al mese contro i quasi 1.400 di un insegnante. Le pensioni del pubblico valgono circa il 72% in più rispetto a quelle medie dei lavoratori dipendenti del settore privato. La differenza è tra 1.872 euro per i pensionati pubblici e 1.012 euro per i privati. In generale, in 5 anni, l'importo medio è aumentato di 100 euro, la spesa complessiva è di quasi 65 miliardi di euro, cioè in aumento dello 0,75%. Rispetto poi al 2014 sono aumentati di 100.000 i pensionati, il 60% negli statali, il 36% negli enti locali e il restante 4% nelle altre casse. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi c'è anche il dato sui mutui. Ad aprile fa segnare una nuova importante crescita, più 71,9% nelle domande di mutuo. Si tratta del record assoluto, con volumi vicini a 5 anni fa, ovvero prima del crollo verticale registrato a partire dalla metà del 2011. Per quanto riguarda l'estero, in Iraq il vessillo dell'ISIS sventola sulla città di Ramadi, e quindi hanno conquistato anche la città di Ramadi. Intanto continua l'allarme in Siria per il sito archeologico di Palmira, al quale si sono avvicinati e potrebbero distruggere il sito archeologico così importante, come hanno fatto in altri siti, anche per esempio in Iraq. Poi Pakistan, due ragazze cristiane sono state vittime di un attacco all'acido oggi a Quetta, capoluogo della provincia di Baluchistan nel Pakistan sudoccidentale, lo riferisce il quotidiano The Dawn. Le due giovani di 27 e 15 anni si trovano nel reparto grandi ustionati di un ospedale cittadino. Sono state avvicinate da un uomo in motorino che con una siringa ha spruzzato loro questo acido in faccia, poi è scappato senza lasciare traccia. Nozze gay in Lussemburgo, e a sposarsi è stato il primo ministro Bettel col suo compagno Gauthier. Il piccolo granducato ha approvato infatti l'estate scorsa il matrimonio omosessuale, e il premier è il primo capo di Stato dell'Unione Europea a sposarsi ufficialmente in un matrimonio gay. E ora di nuovo in Italia, si sono svolti oggi a Padova i funerali di Domenico Maurantonio, lo studente morto a Milano volando giù dall'albergo che ospitava la sua classe in gita all'Expo. Ancora sono in corso le indagini. Ci sono delle indiscrezioni, forse si sa già il nome del compagno che potrebbe aver fatto questa goliardata di mettergli del lassativo dentro la sua birra, però per il momento c'è silenzio su questo. Maltempo, è stata una giornata di disagi in tutto il nord Italia, chiuso per un'ora l'aeroporto di Malpensa, disagi anche negli scali romani per un problema al centro radar. I problemi sono stati risolti poi nell'arco di un'ora. E non si placano, vi dicevo all'inizio, le polemiche dopo la frase sul calcio femminile del presidente della Lega Dilettanti, Felice Bellolli. In stralci del verbale di una riunione sui fondi al calcio femminile compare questa sua frase sul calcio femminile, per appunto, dove dice: basta finanziamenti a queste quattro lesbiche. E sentiremo Sonia Pessotto della FIGC, che era presente proprio quando disse questa frase. Per lo sciopero dei trasporti, sciopero di 24 ore del trasporto pubblico indetto dall'USB contro il Jobs Act e i contratti nazionali fermi da 8 anni, c'è stata oggi una fascia garantita, e poi dalle 20, quindi da circa un'ora fa, al termine dei servizi tornano i disagi e le attese infinite per autobus, tram e metro e tram. Contestata la decisione del prefetto di Milano di precettare lo sciopero, è stata definita una vergognosa scusa dell'Expo, dice l'USB, e poi il rinvio a Torino al 24 maggio per evitare adesso caos, visto che c'è il Salone Internazionale del Libro. Siamo alla musica, c'è stato questo lutto per quanto riguarda B.B. King, e c'è il ricordo del critico musicale Mario Luzzato Fecitz. Il re della chitarra blues, però in realtà era un artista molto istintivo e poco preciso, no? E questo mandava in visibilio le folle. Devo dire che è stato uno che ha portato alla gente il blues in una maniera incredibile. Aveva cominciato tra l'altro facendo il DJ a Memphis, che era una città piena di biscazzieri, prostitute, giocatori. Comunque la cosa incredibile è che in varie occasioni anche pubbliche Ray Charles gli faceva la presa, diceva: ma come fai ad aver vinto tutti questi Grammy come chitarrista che stoni? Gli diceva, ma davanti a tutti, eh? E in realtà questo importava poco alla gente, perché in realtà era un grande comunicatore, lo era anche Ray Charles, che a differenza di lui era di una precisione millimetrica e avrebbe cacciato per molto meno un suo strumentista che faceva gli errori di intonazione di B.B. King. Lui diceva di se stesso, tra l'altro si rendeva conto di questo suo limite, e in un'intervista al mio collega Vittorio Franchini, che era l'esperto di jazz del Corriere della Sera, diceva un po' di anni fa: oggi ci sono tanti ragazzi che sono 100 volte meglio di me, vorrei avere la loro tecnica, la loro velocità e anche le loro idee. Ai miei tempi noi dovevamo improvvisare tutto lavorando sulla chitarra e creandoci la nostra tecnica. Resta il fatto che tutte le volte che l'hanno invitato a Umbria Jazz, credo almeno 5, lui faceva 5.000 spettatori, che per un settore come quello del jazz è come riempire San Siro con rock, cioè voglio dire, aveva un carisma incredibile. Questo ricordo di Mario Luzzato Fecitz su B.B. King, che è morto tra le blues a 89 anni. Per chiudere lo sport, col ciclismo, Diego Ulissi ha vinto la 7ª tappa del 98esimo Giro d'Italia di ciclismo da Grosseto a Fiuggi, e Contadori invece conserva la maglia rosa. Prima di aggiornare chi viaggia, volevo leggere qualche vostro messaggio tra la pagina Facebook di F2 7 note e gli sms al 349-238-6666. A proposito delle frasi di Bellolli, per esempio questo messaggio non si firma, dice: comodo dare addosso a Bellolli, tutti predicano bene e razzolano male. Ad esempio Radio 24, quanto spazio dedicato al calcio femminile in questi anni? Ha ragione, anche se è una cosa diversa, non è che noi non abbiamo voluto dare soldi, visto che non siamo la federazione del calcio italiano, non abbiamo dato calcio finanziamenti al calcio femminile, però per carità è giusto effettivamente, sarebbe di dare più spazio e quindi anche più visibilità. E poi Anna dice: sono un'ex calciatrice etero, ho smesso 40 anni fa, si deve dimettere, il presidente non è degno del ruolo, anche se voglio dire che l'offesa non è di essere lesbiche, è di volerle trattare come delle derelitte che sicuramente non hanno la dignità di giocare a calcio e quindi di ricevere anche dei finanziamenti. Ecco, questo lui voleva essere anche omofobo se ha detto questa frase, al di là di specificare che una etero oppure lesbica. E, ci sentiamo tra pochissimo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, guardo ancora i vostri messaggi prima di ricordarvi quali sono le notizie principali sulla pagina Facebook di Effetto Notte a proposito della frase di Bellolli che poi ha detto oggi a Radio 24: è un golpe, io non ho mai detto queste cose. Invece tra poco sentiremo una testimone. Giorgio dice: non dovrebbe più stare al suo posto ma vi rimarrà. Domenico: non merita alcun commento, in un paese normale lo avrebbero defenestrato all'istante. Chiara: un buzzurro cavernicolo, lui sì. Elena dice: se confermate ovviamente si deve dimettere. Gilles scrive: non succederà niente, come d'uso in Italia, giusto due chiacchiere pro e contro, sarebbe simpatico se avesse una figlia e che lei facesse un coming out. Va bene, adesso però ci occuperemo tra pochissimo di fare un punto della politica di questa settimana. Intanto vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento, invece che alle 21, quali sono le notizie principali della giornata. Primo sì alla riforma della scuola, primi sì, vari sì sono stati detti oggi alla Camera, i sindacati però sono in piazza ed è guerra sugli scrutini. L'agenzia internazionale di rating Standard & Poor's dice che i rating dell'Italia, le prospettive quindi della nostra economia, possono salire con le riforme completate. Tragedia a Napoli, ne abbiamo parlato, spara in casa un uomo dal balcone, 4 i morti, 6 i feriti, si chiama Giulio Murolo, a 45 anni, ammazza la moglie, il fratello, la cognata e un vigile. Renzi nel PD afferma: non ci sono impresentabili, è pronto a provarlo. Intanto Salvini si dice stufo degli attacchi ai suoi comizi, ma il Viminale, il Ministero dell'Interno, assicura per lui 8.000 agenti sono stati messi in giro. Picchiata dal compagno a Terni, dal compagno di classe, una bambina, perché aveva un crocifisso al collo, questa dodicenne a scuola media di Terni, presa di mira da giorni. Maltempo e guasto ai radar, disagi da Roma a Malpensa, per il rogo Fiumicino 5 operai sono indagati. Poi addio B.B. King, la leggenda del blues, aveva 89 anni, cambiò la musica. E poi Bellolli nega frasi su lesbiche, ma arrivano conferme: si dimetta, non l'ho detto, questo è un golpe, dice lui. Ora facciamo il punto sulle tante cose della politica di questa settimana, una settimana intensa, naturalmente la politica con tutte le ripercussioni a vasto raggio, no? Anche sulla società. Sempre in primo piano c'è l'acceso dibattito sulla scuola, c'è stato un incontro tra governo e sindacati questa settimana per trovare una mediazione sul disegno di legge per la riforma della scuola, che appunto è definita la buona scuola, ma è fallito, tanto che i sindacati hanno minacciato nei giorni scorsi il blocco degli scrutini come forma di protesta dopo il grande sciopero che c'è stato il 5 maggio scorso. Ieri però è intervenuto il garante degli scioperi, che ha detto che questo blocco dei scrutini sarebbe illegittimo e che quindi scatterebbe automaticamente la precettazione. Sentiamo allora un breve passaggio di quello che ieri qui il sottosegretario all'istruzione Faraone ha detto. Noi siamo tranquilli nel voler portare avanti questo provvedimento, ripetiamo nel massimo del coinvolgimento e dell'ascolto, per cui se dalle forze sindacali agli insegnanti emergono proposte utili, funzionali, così come è accaduto fino ad ora, continueremo ad ascoltarle e accogliere nei provvedimenti. Se il tema è che non si deve toccare nulla, non ci deve cambiare nulla nella scuola, così come nel mondo del lavoro, così come nelle riforme elettorali che facciamo, se il tema è questo, non ci sarà un governo disponibile ad accettare l'immobilismo, perché purtroppo l'immobilismo l'abbiamo avuto per troppi anni, ora c'è bisogno di cambiare. E sentiamo la risposta, sempre ieri qui Effetto Notte, del segretario della UIL Scuola di Menna. Sanno anche quali sono gli elementi concreti sul precariato, sui superpoteri del dirigente e sulle tutele contrattuali che debbono essere introdotte. Se dopo questo sciopero il governo continua a non capire, noi gli abbiamo detto dal palco a Roma dicono sono di coccio, noi continueremo con la nostra azione di mobilitazione e quindi se a giugno sarà necessario protestare ancora lo faremo nel totale rispetto delle leggi, nel totale rispetto delle famiglie, anzi con il coinvolgimento secondo quanto la legge prevede. Questo per quanto riguarda il tema scuola, poi toccheremo a mano gli altri punti della settimana con Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Fabrizio. Ciao, buonasera. Insomma, qui continua a essere muro contro muro, poi oggi c'è stata anche la manifestazione in piazza Roma del sindacato, dei sindacati, mentre intanto si votavano i primi articoli della legge. Non si riesce proprio ad arrivare a una mediazione possibile. Anche questi superpoteri del preside, la questione delle tutele contrattuali. Per esempio ieri il Movimento 5 Stelle diceva si applica il Jobs Act anche a scuola, ci sono i primi 3 anni di contratto, però poi bisogna vedere insomma come... No, vedi, quello che sorprende appunto è come c'è una posizione sindacale nel mondo della scuola che è più forte, più rigida, più combattiva rispetto anche all'opposizione che c'è stata in generale nel mondo sindacale verso il Job Act. Il Job Act bene o male ha introdotto rinnovazioni importanti nel mondo del lavoro che per anni erano state respinte dai sindacati. Alla fine Renzi l'ha portato a casa senza nemmeno grandi proteste. Sulla scuola in effetti invece c'è un muro contro la parte sindacale e anche l'atteggiamento di Renzi sembra molto più prudente proprio perché in questo caso va veramente contro una parte del suo elettorato, una parte del suo elettorato importante, quindi mi sembra da parte del governo, soprattutto in questo periodo elettorale, i segnali di disgelo, di tentativo di dialogo, di trattare ci sono a tutti i livelli. Però la risposta continua a essere durissima, insomma sembra quasi che il mondo della scuola sia in assoluto forse quello più conservatore in questo momento in Italia. Io credo che la scuola è evidente a tutti che richiede dei mutamenti profondi, ma c'è un mondo sindacalizzato di insegnanti, di professori che in qualche modo respinge ogni cambiamento. Senti Fabrizio, poi passiamo agli altri temi della politica, ma anche questa figura del preside, come ha detto il sindacalista, dai superpoteri, a te piace? Dopo sentiremo un preside tra l'altro più tardi. Ma io non capisco cosa vuol dire i superpoteri, ogni volta in Italia demonizziamo diciamo ogni innovazione. Cioè la possibilità di scegliere lui di assumere gli insegnanti e di premiarli se merita. Superpoteri, mi sembra un normalissimo diciamo potere di un preside che dovrebbe poter selezionare i migliori insegnanti per la sua scuola, ma questo a beneficio di chi? Dei superpoteri di questo preside che diventa improvvisamente un tiranno o in favore degli studenti che devono frequentare? Ma Fabrizio, non c'è sempre un po' il rischio tipicamente italiano del clientelismo, dell'amico dell'amico, queste cose qui? Ecco, ma forse... Se ragioniamo così, non capisco perché il clientelismo mi sembra che passa in maniera molto forte in Italia proprio attraverso anzi gli organismi collegiali, gli organismi in cui tutti sono responsabili e nessuno è responsabile e quindi tutti vengono premiati purché siano amici di qualcun altro. Bene o male un preside se decide si prende anche responsabilità delle sue scelte e se decide male, se prende i peggiori professori che sono in circolazione sicuramente la sua scuola non sarà una scuola con un gran futuro. Io credo che insomma una mentalità in cui si possa verificare il merito, in cui ci sia qualcuno che sceglie e con la responsabilità della scelta si presenta davanti agli elettori in un caso, davanti agli utenti di una scuola, di un ufficio, in base a quello che uno ha fatto e può essere giudicato per quello, credo sia un passo avanti importante in Italia, proprio a livello culturale. Poi sentiremo Fabrizio, il vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi tra poco, però adesso noi intanto passiamo agli altri argomenti, per esempio il nodo intricato è quello oltre alla scuola, quello degli adeguamenti pensionistici da restituire, no? Dopo la sentenza della Consulta. Sentiamo cosa ha detto oggi Renzi in un passaggio a Radio Anch'io. Il governo Monti ha bloccato l'indicizzazione. Questo blocco è considerato incostituzionale. Noi stiamo studiando come fare a superare il limite della Corte e contemporaneamente l'esigenza di bilancio, sapendo che questi soldi io dico purtroppo, non andranno ai pensionati che prendono 700 euro al mese, perché la mia preoccupazione è quella di chi prende poco, è il motivo per cui abbiamo restituito 10 miliardi di euro a 10 milioni di italiani. Restituiremo una parte di questi soldi, devo dire che ormai ci stiamo specializzando in questa caratteristica, quella di andare a risolvere i problemi creati dagli altri. Ma in questo caso probabilmente sì, Fabrizio Forché, potrebbe prendersi anche il rischio Renzi e la sua maggioranza di danneggiarsi un po' in vista delle elezioni regionali del 31 maggio, sì, se già annunciano che solo una parte di questi soldi verranno dati. Devo dirti che mi ha sorpreso oggi la frase di Renzi, perché insomma è evidente che lui suo interesse è cercare di rinviare questo provvedimento dopo le elezioni. Comunque lo fa questo provvedimento, scontenta qualcuno, scontenta molti, ti esponi in campagna elettorale all'accusa di Salvini, infatti oggi prontamente Salvini ha polemizzato su questo, di non pagare tutti, no? Di non pagare tutti gli aventi diritto, per cui è interesse sicuramente di Renzi far dettare questo provvedimento. Mi ha sorpreso la frase di oggi, che in qualche modo ha detto che appunto non pagherà tutti. Da un punto di vista, diciamo, di un bravo comunicatore, anche propagandista come Renzi, insomma, questa sua sincerità in questa frase è apprezzabile, però diciamo appunto dal punto di vista della campagna elettorale danneggia. Senti, invece, per quanto riguarda quindi Renzi ha questo problema e quello dei cosiddetti impresentabili, soprattutto in Campania, anche se poi la sua visita che doveva esserci domani a Napoli è stata rinviata per la strage che c'è stata quest'oggi. Dall'altra parte, in Puglia c'è Forza Italia, la guerra dentro Forza Italia con Berlusconi e Fitto. Berlusconi oggi ha detto, l'ho fatto sentire all'inizio, Fitto chi? E ha detto che praticamente per lui è fuori. Come andrà a finire in Puglia? Siamo pochi giorni. In Puglia mi sembra che i sondaggi sono abbastanza chiari a favore del centrosinistra. E questi sistemi elettorali non danno scampo. Quando una parte politica si divide, difficilmente poi vince le elezioni. In Puglia succede con la divisione del centrodestra, e fino anche in Liguria, al contrario, dove la sinistra si è divisa e dove potenzialmente la sinistra dovrebbe vincere a mani basse in una regione come la Liguria, poi il candidato un po' debole di Renzi, ma soprattutto la divisione della sinistra mette a rischio una regione come la Liguria, dove se effettivamente Renzi perde certamente non è un brutto segnale per lui. Insomma, queste elezioni, il PD è forte, nei sondaggi è alto, Renzi sicuramente conserva un buon consenso nel paese, è sicuramente alto nei sondaggi, e tuttavia un po' le regioni in cui si vota, un po' i sistemi di alleanze fanno sì che non è detto che il giorno dopo le elezioni commenteremo una stravittoria di Renzi, perché in diverse regioni, insomma, il PD e l'alleanza che è intorno al PD rischia di perdere. Staremo a vedere, abbiamo ancora una quindicina di giorni. Grazie Fabrizio Forché, intanto buon fine settimana. Ciao Fabrizio. Ciao. Parlavamo quindi di scuola poco fa, fra i vari temi politici di questa settimana, e adesso ne parliamo con un addetto ai lavori, che è Mario Rusconi, che saluto. Buonasera Rusconi. Buonasera a tutti. Vicepresidente dell'Associazione Nazionale dei Presidi e preside anche del Liceo Newton di Roma. Lei di questa riforma, dal suo punto di vista, che ne pensa? Lei auspica di diventare un preside Rambo, come l'ha definito qualcuno, un preside dai superpoteri? Ma guardi, io ho usato un'altra metafora, ho detto preside sceriffo con le pistole, poi siamo andati a guardare le nostre pistole e ci siamo accorti che sono pistole ad acqua. Cioè, in questo momento la rivolta, diciamo così, soprattutto condotta dai grandi sindacati della scuola, è contro, diciamo, una prospettiva di tipo europeo proprio della scuola stessa. Sentivo prima, anche quando lei parlava con Forché, relativamente alla scelta dei docenti da parte del preside, ma questo è il messaggio che è passato un po' così, mi si permette, un po' grossolanamente, perché la legge è precisa e sarà ulteriormente specificata nei decreti attuativi, perché teniamo conto che è una legge delega, quindi ha bisogno di una serie di decreti attuativi molto precisi, che i criteri di scelta per quanto riguarda i docenti devono essere chiari, trasparenti e soprattutto devono essere fondati sulle necessità del piano dell'offerta formativa. Cioè, in poche parole, sarà il collegio dei docenti, il consiglio d'istituto, che fanno parte della governance della scuola insieme al preside, che stabiliscono le necessità formative di quel tipo di scuola. Su queste basi, su questi criteri, il preside potrà scegliere non il proprio amico, il proprio cliente o così via, ma la persona più adatta per quel tipo di ruolo. Poi, se il preside, perché siamo il paese del sospetto, probabilmente, come dice il presidente Mattarella, ingenerato dal fatto che siamo un paese in cui è fortissima la corruzione, se per caso quel preside ha agito in mala fede, clientelarmente, cioè, alla fine dei 3 anni, ma noi lo spieghiamo anche prima, ci sarà un nucleo di valutazione in cui ci saranno anche i rappresentanti dei genitori del consiglio d'istituto, che valuterà il suo operato e che quindi potrà stigmatizzare tutte le azioni che sono state fatte in maniera non lecita, in maniera immorale o al minimo contro appunto quelle che sono le esigenze della scuola stessa. Preside Rusconi, adesso la porto brevemente nell'ultimo minuto su un altro argomento sempre relativo alla scuola, ma in modo diverso. Ha sentito di questo 19enne morto a Milano durante la gita scolastica, no? Qualcuno dice le gite ormai sono cose del passato, sono un po' demodé. Guarda, ho letto pure io il buongiorno di Gramellini e così via, e per la prima volta probabilmente non sono per nulla d'accordo. Neanche io devo dire la verità, Ma le dico sinceramente che le gite fatte male ci sono state da sempre, ma se una gita è organizzata bene, il che vuol dire che il professore ha lavorato con gli studenti molto tempo prima nella scelta per quanto riguarda gli obiettivi formativi eccetera, la gita ha una grande significato, una grande valenza. Da una parte formativa direttamente, andiamo non so a Varsavia, poi andiamo ad Auschwitz e vediamo appunto i campi di concentramento, ma anche un'altra valenza formativa, serve a far conoscere meglio i ragazzi tra di loro, è socializzante, serve sì, come esperienza. Serve agli insegnanti per conoscere meglio i ragazzi, è chiaro che ci vuole un grosso polso, bisogna evitare che appunto succedano tragedie come queste, ma anche cose diciamo meno eclatanti, ma che i ragazzi di notte si possono ubriacare oppure fare, come si dice a Roma, le peggio cose. Cioè l'importante è che ci sia proprio la mano, come dire, didattica, formativa, pedagogica dell'insegnante. Come al solito il punto centrale di ogni riforma della scuola e di ogni elemento positivo della scuola è l'insegnante, che in Italia fino adesso, e questi sindacati non lo dicono, è stato scarsissimamente valorizzato, grazie anche al fatto che ad esempio i sindacati da 20 anni a questa parte hanno fatto togliere dai contratti l'obbligo per l'insegnante di essere aggiornato e nello stesso tempo hanno tolto allo Stato questo, diciamo così, l'impegno a riversare risorse finanziarie per l'aggiornamento degli insegnanti stessi. Io la ringrazio, preside Rusconi, e poi magari ci aggiorniamo ancora sull'evolversi di questa riforma della scuola, vediamo a che punto arrivano. Grazie intanto. Volentieri, buonasera. Grazie, buona serata. Leggo ancora brevemente qualche messaggio vostro sulla frase di Bellolli, perché poi sentiremo Sonia Pessotto della FIGC. C'è Marco che dice: tanto rumore per nulla. Cristiano: bello, alla Zanzara ha dichiarato di non aver pronunciato quelle parole, aggiungendo che i problemi del paese sono ben altri, forse il traffico. Dice: non succederà nulla, si tratterà di un fraintendimento e chi ha redatto il verbale verrà licenziato. Paolo: lui l'ha smentita, come diceva il grande Enzo Biagi, una smentita è una notizia data 2 volte. A tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Io ora vorrei soffermarmi su una polemica abbastanza indegna, se i termini sono fondati, insomma, di cui facevo accenno ieri, che riguarda il mondo del calcio, ma in particolare il mondo del calcio femminile, che mentre negli Stati Uniti e in altre nazioni è proprio portato, insomma, in palmo di mano, in Italia sapete che soffre, per langue, perché si dà poca importanza, non ci sono finanziamenti, si investe tutto sul calcio maschile. Come se questo non bastasse, il presidente della Lega Dilettanti, Bellolli, quello che ha preso il posto di Tavecchio, ieri pare sia emerso che abbia detto una frase, dire infelice è davvero poco. Ha detto basta, a proposito di una riunione circa i finanziamenti al calcio femminile, ha detto basta dare soldi a queste 4 lesbiche. Allora, già ieri avevo premesso che lesbiche non è un'offesa, ma evidentemente lui l'ha usata così come termine denigratorio, omofobo. Però ha negato di averlo detto, dice bisogna provare che io l'abbia detto, e facciamo sentire che cosa ha detto oggi a Effetto Giorno. Ho risposto che rinviavo ieri alla richiesta dell'ANSA e ripeto, io non l'ho detto, questo è il messaggio chiaro e tondo, anche perché io col settore femminile sto lavorando e ho fatto dei programmi, assolutamente non mi stanno attribuendo cose che non ho detto. Io mi meraviglio anche come possa essere uscito questo discorso qua, per me è un po' un colpo. Così ha detto oggi a Simone Spezia, effetto giorno, quindi lui dice io non l'ho detto, si provi che io ho detto queste cose, forse qualcuno lo può provare. Intanto la chiamo in causa, è Sonia Pessotto, buonasera Sonia. Buonasera. Ex calciatrice e consigliera del Dipartimento Calcio Femminile della FIGC. Pessotto, lei c'era quando Belloli ha detto questa cosa? Sì, in qualità di presidente di una società eletta da altre società nell'ambito del consiglio del dipartimento. C'ero e questa frase è emersa alla fine di una discussione piuttosto concitata in cui il presidente Belloli ha continuato a ripetere che non ci sono soldi, non ci sono soldi per il calcio femminile, scordate di finanziamenti che sono stati fatti dati lo scorso anno, non ci sono soldi, e poi se ne uscì con questa frase. Senta, qualcuno ha risposto in quell'occasione, ha detto qualcosa o è semplicemente stato messo a verbale? No, è proprio stata messa a verbale questa frase. Sì, diciamo che in quel momento, secondo me, così come almeno io parlo per me, non ho avuto la forza di reagire perché sono rimasta talmente stupefatta, talmente basita, se si può dire, che non c'è stato modo di ragionarci sopra un attimo. Poi la discussione è andata avanti, anche perché è stata detta in maniera molto, molto forte, molto violenta. Il presidente Belloli, dicendo che non c'erano soldi, era molto quasi alterato, insomma, perché noi portavamo avanti le nostre ragioni e quindi questa cosa ci ha lasciato molto, almeno a me ha lasciato senza parole, insomma, ecco. Quindi non solo lo ha detto, lei dice che l'ha detto, ma l'ha detto anche in modo brutale, così. Sì, in modo quasi violento, insomma, ecco. Allora, lui nega, lei ha chiesto le dimissioni, se non sbaglio? Lei ha chiesto le dimissioni? Sì, ad alcuni altri giornalisti che mi hanno chiesto se doveva fare un passo indietro, io ho detto che sarebbe la soluzione più corretta, anche perché il calcio femminile fa parte della Lega Dilettanti, quindi non è una cosa altra dalla Lega Dilettanti. Certo. Questo episodio risale al 5 marzo, non è cosa di ieri, è uscita in questi giorni perché probabilmente qualcuno è venuto, qualche giornalista è venuto a conoscenza del verbale, quindi è una cosa che risale a qualche tempo fa. Noi non abbiamo chiesto le dimissioni in quel momento perché, ripeto, siamo stati senza parole. Prese in contropiede, come si dice in termini calcistici. Esattamente, sì. Senta, e adesso che cosa avete invece intenzione di fare, Pessotto, visto che appunto lei è consigliere del Dipartimento Calcio Femminile della FIGC? Ma io chiedo le dimissioni. Se non si dimette lui, mi dimetterò io, perché non credo che sia, questo lo dico formalmente, non credo che sia possibile andare avanti con una persona che non solo denigra il calcio femminile, ma assolutamente non lo tiene in considerazione, insomma. È davvero, davvero un peccato, insomma, è una cosa, se è così, davvero indegna, insomma, perché si capisce anche. A me piace una cosa però in tutto questo, che si parli del calcio femminile in occasione di questa situazione, no? Mentre non si riesca a parlare di calcio femminile, che so io, magari anche dando solo i risultati del campionato di calcio di Serie A femminile durante le trasmissioni della RAI o di radio importanti come la vostra o di altre radio importanti. Cercherò di farlo, Sonia Pessotto, cercherò di informarmi e di avere risultati, se mi date una mano anche voi, perché magari è difficile, no? Trovare i canali, certo, giusti per avere queste informazioni. Certo. Senta, quindi lei conferma che se Pessotto non si dimette è disposta a dimettersi lei? Ah, io sì, non so che cosa, come si possa andare avanti in un clima di poca fiducia reciproca, insomma. Ho sentito che alcune calciatrici hanno anche detto: se non si dimette, se non succede qualcosa, faremo delle proteste anche in campo. Sì, ho sentito anch'io questa cosa. Mi auguro che il fronte del calcio femminile, dai presidenti alle calciatrici, sia compatto in questa protesta, insomma. Bene, mi sembra giusto, anche per la dignità che merita il calcio femminile. Ecco. Senta Pessotto, ma Tavecchio, il presidente della FIGC, l'ha chiamata dopo tutta questa bufera, questo caos? Personalmente non sono stata chiamata da Tavecchio, non so se lui ha chiamato magari altri consiglieri del dipartimento. Ma si aspetta che la chiami dopo questa sua dichiarazione? Non lo so, no. Vorrebbe? Vorrebbe. Io come altri consiglieri, come la coordinatrice del consiglio di dipartimento, che ci rappresenta un po' tutti, insomma, ecco. Magari probabilmente con la dottoressa Signorile ha avuto dei contatti. Questo però per il momento non lo so, perché è stata una giornata concitata dove ci sono stati incroci di varie telefonate, quindi però per il momento non mi ha chiamato. Immagino. Grazie Sonia Pessotto e buona continuazione. Grazie. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E vi ricordo le principali in pochi secondi: la strage a Napoli con quest'uomo che per futili motivi ha sparato prima alla moglie, ha ucciso la moglie, il fratello, la cognata e un vigile sparando dal balcone ai passanti. Il bilancio: 4 morti e 6 feriti. Poi per la scuola, la Camera approva i primi articoli, i sindacati manifestano in piazza Roma. Il caso delle frasi sessiste sul calcio femminile, ne abbiamo appena parlato. E poi una notizia che è arrivata poco fa: l'attentatore della maratona di Boston, vi ricordate, del 2013, negli Stati Uniti è stato condannato a morte. Europa 24 notte. Le elezioni britanniche della scorsa settimana hanno ufficialmente aperto la porta al referendum sull'appartenenza di Londra all'Europa, in programma fra 2 anni. C'è il serio rischio quindi di un'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea? Sergio Nava lo ha chiesto a Maurice Fraser, che è capo della European Institute alla prestigiosa London School of Economics. Penso che è quasi sicuro che i britannici voteranno per rimanere nell'Unione Europea. Questa vittoria molto impressionante dei conservatori fa molto più probabile, perché David Cameron, con questo successo, avrà la legittimità per negoziare con i suoi partenari nell'Unione Europea. E anche ora la confianza e la legittimità per negoziare è molto sicuro, dire 900% di sicurezza che i britannici voteranno per rimanere nell'Unione Europea. Loro voteranno dopo 2 anni di negoziati tra Londra e Bruxelles, perché sì. Quello che farà David Cameron ora sarà andare a negoziare una Reformed EU, un'Europa riformata. Sì. Allora, quale Europa chiederà Cameron a Bruxelles? Cameron chiederà un'Europa più flessibile, più liberale, con più competitività, con più flessibilità nel mercato nel lavoro. Queste cose che si aspettano del Regno Unito, questa posizione liberale, con queste riforme che molto paese, anche l'Italia, sta facendo in questo momento in Europa, allora va nella stessa direzione la posizione del Regno Unito e dei suoi partenari verso la liberalizzazione. E verso mercati di lavoro che funzionano di una maniera più efficiente. Poi ci saranno temi come l'immigrazione, ad esempio, o la libertà di movimento, sui quali potrebbe avere dei no, anzi probabilmente avrà dei no. E cosa succederà? Il principe della libertà del movimento non è un principe che David Cameron vuole confrontare. Lo ha detto. Vuole qualche riforma, soprattutto nell'accesso a qualche benefits. benefits sociali. Però noi il principe del movimento, sì, questo è quasi sacro nell'Unione Europea. Quindi mi pare capire anche, per concludere, che lei è ottimista sui 2 anni di negoziati che Cameron avrà ora con l'Unione Europea. Sì, sono ottimista perché penso che gli altri paesi dell'Unione Europea vogliono veramente che il Regno Unito rimane centro dell'Unione Europea e che l'Unione Europea non si mette sotto la direzione di un paese, per esempio dell'Germania. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Adesso è tempo di sapere che tempo fa Freccia con il nostro Paolo Corazzone di Trebi Meteo. Caro Paolo, come un tornado. Buonasera Roberta, sì, siamo in partenza a caccia di tornado noi domani, ma vediamo intanto con la situazione in Italia. È arrivata questa intensa perturbazione, sta ancora piovendo in molte zone del centro-nord, durante il weekend si sposterà al centro-sud, ma fortunatamente perderà di intensità. Oggi abbiamo avuto addirittura anche il ritorno della neve in montagna e delle grandinate, quindi avremo una giornata di domani molto variabile al centro-sud, con alternanza di nuvole schiarite, però appunto anche degli acquazzoni e una diminuzione delle temperature. Per domenica però ci attendiamo un netto miglioramento al centro-nord, dove tornerà il sole dappertutto, ancora un po' di variabilità al sud, ma in realtà con pochi effetti, quindi la domenica sarà sicuramente più godibile. E settimana prossima ti dirò, situazione abbastanza tranquilla in gran parte d'Italia. Meno male, grazie Paolo Corazzone, buona caccia di tornado.